24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul petto. Allora, passerotti o tacchini, eccoci qua, ben ritrovati, sono qui alle 6:34 minuti con Miriam Lucchetti in redazione, Carmelo Lauricella in regia perché abbiamo preso l'alpino, l'abbiamo rottamato con un bel calcio nel sedere, pam, via. E allora, chi c'è? Ah, c'è il consiglione, ma è ovviamente soprattutto di questi tempi, il consiglio del Presidente del Consiglio. But please relax. Sempre relax. Dai, apriamo il nostro bar con Nicole Minetti che ci offre il caffè, come sempre. Il caffè volentieri a tutti quanti. Voglio salutare con due graditissimi ritorni. Vincino, buongiorno direttore. Buongiorno, eccoci qua. Saluto e le presento il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno. Ah, ben buongiorno, ritrovato. Buongiorno della colonna infame. Cos'è subito Vincino? De Manzoni, la colonna infame. Là, insomma, sono felicissimo di conoscerlo in radio. Dai. Finalmente. Era un altro, ma era va bene altro. Lo stesso. Va bene lo stesso. Vabbè, allora, Vincino, parente, insomma. Sì, infatti. Senta, Vincino, ma sì. Io ieri non c'ero, che ero in ferie, non ci sono da venerdì. Che è successo qualcosa negli ultimi tre giorni? Guardi, è una cosa... Ci sono 35 cose, 43 cose insieme, proprio uno... È cambiato tutto il mondo, concretamente, da che eravamo felici, contenti, in un paradiso meraviglioso, con monti che ci coccolava, ci cosava, che ci siamo trovati di nuovo nel baratro più sprofondo. Ah, addirittura, in tre giorni, mannaggia. Tutto ma io, in tre giorni. E io che facevo le strade, oggi mi sembravano uguali, i semafori arancioni, sempre che non andavano a Milano, non so, sembrava tutto uguale. Eppure, invece è tutto cambiato. È tutto cambiato. De Manzoni, che è successo, Massimo? Tre giorni. Successo che Monti ha detto che allora adesso non ci sta più, l'hanno sfiduciato, lui se ne va e adesso ci pensa che cosa fare. Intanto che lui pensa che cosa fare, i mercati sanno benissimo cosa fare, hanno iniziato a lavorarci ai fianchi, diciamo così. Ho letto anche questo titolo oggi sul Fatto Quotidiano, sui giornali, lo spread vuole Monti. Ma chi è sto spread? Io non lo so, ma vota? Non ho capito. Ci provano. Vuole Monti. Allora basta, sospendiamo tutto. Non votiamo a febbraio, ma non votiamo neanche ad aprile. O no, Vincino, lo spread vuole Monti. Tutto pelacchioso, immagino. Ecco, come lo raffigurerebbe una vignetta lo spread? Però è orribile, tutto pelacchioso, con quattro gambi, 230 mani, no, prende raffa, è proprio lo spirito di tutta questa finanza mondiale che gira da tutti i lati. Lo spread. Monti è proprio indignato, mentre lui stava all'estero in questa tournée che ogni giorno diceva quanto è bello, quanto sono bravo, quante cose, e quell'altro, pambete. Che è ritrovato in patria questa congiura. Un disastro, se tu vedi, Repubblica Online. Posso dire foto, che non è indignato Monti? Non è indignato Monti, dice De Manzoni. No, secondo me Monti è abbastanza contento per lo spread, anzi, forse si aspettava qualcosa di peggio ieri. Dai, Monti spera che l'Italia vada a catafascio. Non ho detto spera, ho detto si aspettava. È triste. Lui è triste. Se tu guardi Repubblica Online, c'è Monti che guarda Merkel e Hollande. Quei due sono allegri e lui è triste, dice: ora non sarò più di questo club. Ah, è quello, cioè è stato fatto fuori. Vabbè, sì. Ma è il momento, attenzione, è il momento dei sassolini dalle scarpe da togliersi. Sentite ieri Elsa Fornero, il ministro del welfare. Elsa Fornero era da Gad Lerner per l'ultima puntata dell'Infedele e dopo un anno è tornata sulle famose due lacrimucce. Lo vogliamo dire, visto che sono qui da lei, che due lacrimucce di Fornero sono state ridicolizzate per un anno, mentre quelle di Vendola sono un segno di sensibilità virile, per non parlare di quelle di Bersani. Avete sentito, Vincino? Se l'è tolto finalmente il sassolino, quelle lacrimucce. Anche se l'ha registrata, secondo me, ieri, Però, come dire, ha ragione là su questo qua, ha ragione. Se l'è tolto questa, De Manzoni, Vendola, sensibilità virile, Bersani, che piangono, le lacrimucce di Fornero invece. Voi che di Libero siete molto amici del ministro, del ministro Fornero. Posso dire che però stavolta ha ragione davvero. Cioè, incredibile, Libero dà ragione a Fornero, questo è il titolo. È vero, perché... Cioè, devo dire, lei ci ha messo del suo dopo per farci ricordare molto spesso queste lacrime. Però quando dice che le sue sono state prese in giro, quelle di Vendola e Bersani no, ha perfettamente ragione. Allora, io ve lo voglio... Noi abbiamo preso in giro tutte le lacrime. Ma infatti... Perché poi io ero per la Fornero e Vauro contro, c'era una litigata continua. Comunque... Cioè, lei è per la Fornero mentre Vauro era contro. Vauro sì. È sempre contro... Ma Vauro è contro tutto. È contro tutti. Vauro è contro tutti. Anche l'altra volta ci ha detto contro Monti, contro Bersani, contro... Su questo, contro Monti, contro Bersani, contro Berlusconi, contro Casini, contro Libero, contro cosa, siamo tutti, come dire. Tutti d'accordo. Siamo... Come sento il povero Libero. Aderiamo. Vabbè. Vauro è uno dei migliori autori satira siciliani. Vabbè, allora, bisogna parlare di Berlusconi, sì. Ci tocca. Allora, vogliamo farla risentire, anche se ormai è andata in tutte le salse da domenica, ma la Litizzetto, che gli è, perché qua abbiamo uno degli esponenti anche della satira italiana, la Litizzetto, allora cosa ti ha combinato questo? Ha detto abbiamo queste tirato cose la qua. Cinghia, Monti ci ha messo tutte queste supposte una per una, come le cartucce della Cerbottana, adesso torna Berlu, sale lo spread, io... Non dico un pudore che è un sentimento antico, ma una pragmatica sensazione di aver rotto il cazzo. No, non c'è! Con Fazio che come al solito pateticamente dice no, ma in realtà sa benissimo quello che sta per dire Luciano Litizzetto, immagino. Allora, la questione è, anche a vedere i giornali europei, molti giornali europei, la mummia torna. Ma Vincino, ma è giusto trattare in questo modo, no? Torna la mummia, il cesso, un giornale l'ha messo nel water la faccia di Berlusconi. Cioè, sono vecchie figure della satira di sempre, come bisogna dire che anche lui ci mette del suo, perché secondo me lui sbaglia Cerone la mattina. Se voi lo vedete, questi ultimi mesi rispetto a 5 anni fa ha cambiato faccia un poco e lui non se ne accorge, sui manifesti viene male così, deve cambiare qualcosa. Sarà qualche lifting un po'... All'acido solforico se lo fa il lifting, presidente, sembra che lui abiti dentro l'Ilva, preciso. Addirittura a Tamburi, lui si è comprato una casa a Tamburi, sta là ogni mattina, apre la finestra e poi risulta con questa faccia così prangete che solo al Libero, al Giornale non se ne accorgono di come è fatta, però in tutto il mondo dice ma guardi, questo ha dei problemi, no? Sì, però c'è da capire. De Manzoni qui dice i marziani, no, era lui, era Berlusconi. C'è questa accoglienza da parte di alcuni giornali o di diversi giornali, De Manzoni, un po'... Come dire, un'accoglienza, caro Berlusconi, eccoti che cosa ti aspetta se pensi di ricandidarti. Però è giusto, è sbagliato, adesso riparte la satira, ci sarà la Guzzanti, la Dandini e via così. Non lo so, i giornali stranieri fanno quello che vogliono, giustamente, libertà per tutti, anche noi ogni tanto ci andiamo giù un po' pesanti con la Merkel, per cui non c'è problema. Rilevo che fa abbastanza paura ancora, stranamente poi, perché vuol dire non conoscere bene la situazione italiana, non è che Berlusconi si stia candidando a vincere, perché insomma, quello sì, lui lo dice, lo deve dire, ed è ovvio, non, però non vincerà mai, questo di, 15 punti di distacco non si recuperano, per cui diciamo che ironia un po' gratis. Diverso è il caso oggettivamente del Litizzetto, perché la RAI è il servizio pubblico, la pagano tutti, anche quelli che voteranno Berlusconi. Diciamo che è esagerato. Hai esagerato. Vincino, un po' esagerato. In realtà, però gli sta ritirando di nuovo la campagna, come dire. Ma infatti, secondo me, il modo migliore per cercare di dare una mano a Berlusconi verrà dagli anti-berlusconiani. Quello era disperato. Non solo, cioè lui era a capo di un partitino del 12-13-14%, ma manco fini 10 anni fa era come cosa, no? Con Bersani sicuro vincitore tranquillo, no? Che questo qua vince da tanti anni sempre le primarie con la stessa platea elettorale, infatti Bersani, l'ideale di Bersani sarebbe votare con la stessa platea delle primarie, poi sono le secondarie sono il problema, no? Come diceva qualcuno, le secondarie diventano un problema, no? Esattamente. Poi ha già offerto il posto di ministro a non so che cosa, a Monti, no? No, come no? Ma Bersani si è detto stia fuori dalla partita, Monti. No, no, poi ha pure offerto il posto di ministro. Ma ministro di che cosa? Ma gliel'ho offerto. Ma ministro di che? Ma no, ma Monti, figurarsi. Le lacrime che qua tutti che piangono, Casini, Fini, cosa. E un postillista, lo prego, per favore, venga da noi. È una cosa, guardi. Un po' così. Intanto Mario Monti, oggi Vincino disegna anche Mario Monti, com'è la vignetta? Ora o mani libere? Perché sì. prima? C'era anche lui, per un anno ha fatto il campo, cioè tutto quello che ha voluto, no, completamente. Ho capito, ma ha fatto quello che doveva fare. Ora o mani libere? Ma scusi, ma prima? Prima. Sentite però, sentite Mario Monti che parla in inglese, sono rimasto sconvolto da come parli male inglese Mario Monti. Io me l'aspettavo, cioè un fluent proprio. Io pure, credevo che sentite, come la regina. Invece sentite Mario Monti ieri che commenta i mercati, fa anche uno strafalcione di grammatica, dice need not. Ma come? Don't need, la negazione, need not. Sentite. I understand market reactions. They need not be dramatized. Vabbè, che è need not, non lo so, non lo in inglese io mandiamo Vincino a fare una dichiarazione De Manzoni, ma posso dire sì. Questo è il frutto, la vostra sorpresa è il frutto della propaganda che c'è stata in tutto quest'anno si è capito la prima volta che parlava inglese che lo parla così, ecco. Un inglese un po' maccheronico, molto scolastico, ma siccome titolo di Libero, Monti non sa neppure l'inglese, non l'avevamo fatto e quindi adesso siete tutti sorpresi che non lo sappia così ma bene. Che ne so, magari perché need not, ha raccontato a tutti che era sobrio, che parlava benissimo l'inglese Invece, non creduto. Invece no. Tedesco, tutte le lingue lui sapeva. Saprà meglio il francese. Sapete cosa pare abbia detto a Hollande? Questa è una indiscrezione che ha Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore. Ieri, incontrandosi a pranzo con Hollande, pare che Monti gli abbia detto nessuno, neppure un incantatore come Berlusconi, potrà fare più breccia in un paese adulto e maturo. Pare che gli abbia detto così. Chissà se è successo veramente. Intanto andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 24 mattino. Non può mancare di lunedì mattina. Arrivederci, signor Alessandro. D'accordo con Forchelli che noi italiani siamo fetta. Ma voi giornalisti siete proprio in prima linea riguardo. Come si permette a far commentare Scola a Luxuria? Si vergogni. Berlusconi, stai a casa, ci hai rovinato la vita. Ragazzi, la vita è dura. Qua non si può vivere più, la gente muore di fame. E i politici che fanno? Bisogna prendere la forca e cominciare a pungerli da dietro. Questi politici, e non aggiungo tutti gli epiteti che potrei aggiungere, oltre che rovinare l'Italia, stanno rovinando pure le borse oggi. Io ho 4 soldi in borsa. Non so quando riuscirò ad arrivare a riaverli in mano. Devo ringraziare anche loro. Monti e Company hanno commesso un errore. Hanno dimenticato l'IMU e oneri sull'oculi, cappelle e tombe, con esclusione ovviamente dei mausolei. Signora Meteorina, forse ti corre dietro l'uccellino di Bersani? L'uccellino di Bersani ti corre dietro? L'uccellino di Bersani ti corre dietro l'uccellino di Bersani? Ma io vorrei conoscerla questa signora che ci ha lasciato questo messaggio in segreteria. Vincino, siamo con Vincino e il vice direttore di Libero Massimo De Manzoni. Credo che ce l'avesse con quella che fa il meteo, dicendo che era troppo veloce, non si capiva. L'uccellino di Bersani. Vabbè, forse si intendeva il passerotto. Comunque una cosa positiva c'è. Cioè? La, Roma non sarà, la provincia di Roma non sarà unificata con quella di Viterbo. Ah, ma infatti è fantastico! È saltato il decreto di riordino delle province. Questa quando si dice la iella, stavolta che ce l'avevano quasi fatta. A Lucca porca miseria. Le cose erano così felici. Pisa e Livorno possono dormire. De Manzoni. È saltato. Ma guarda che proprio stavolta ce l'avevano fatta. Dopo quasi 20 anni erano lì. È proprio stata una roba vicinissimi, ci sono andati. Saltata anche stavolta. Sono riusciti persino a non tagliarle, perché non tagliarle. Però questa cosa dell'accorpamento l'avevano studiato bene. Porca miseria, guarda che proprio l'avevano fatto bene stavolta. È proprio quando si dice la sfortuna. Comunque le abbiamo recuperate le lacrime vere, le due lacrimucce, risentiamole, perché sono sempre un momento della storia della Repubblica Italiana. Sì. Allora, nessuna riforma pensionistica da, nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione, risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto... E questo sì che ci è costato anche psicologicamente chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Ecco, io l'intervento di Monti, secondo me, è la cosa più straordinaria. Vincino, ma con che... Ma con i battiti 40 al minuto di Monti, in quel momento. Credo 42, forse, no? E in contemporanea 400-500 mila soldati e tutte le loro famiglie, iniziavano la lacrimazione di quelle... E poi non so se avete colto il flash, il rumore dei flash, no? Quando ha detto la parola che è iniziato a piangere, ho sentito tutti che facevano la foto dei Fornero che piangeva, un dramma. De Manzoni, questo è stato uno dei momenti più, non lo so, uno degli inizi, tra l'altro, del governo Monti, si diceva, è la Fornero. Però molti hanno detto, Fornero dimostra anche umanità, no? Poi dopo voi avete fatto il tiro al piccione con il ministro Fornero. No. È vero, cioè, noi abbiamo criticato non la donna e non la persona, ma i provvedimenti, e quelli sono lì da vedere, cioè, gli esodati non li abbiamo fatti noi e sono ancora lì, che come dice giustamente Vincino, quelli lì che piangono. E poi ha fatto piangere anche un altro po' di altra gente. La gente che piange di più, che nessuno ascolta, secondo me, è tutta quella che, grazie alla cosiddetta riforma del mercato del lavoro, adesso il lavoro non lo trova più neanche precario. Tra l'altro, razza di ignorantoni tutti noi. No, voi non sapete quanti messaggi mi sono arrivati a dire che need not, seguito dall'infinito, è una forma corretta eppure ricercata di inglese. Avete visto Mario Monti? Eccolo lì, libero. Prima pagina da rifare, altro che Monti non sa l'inglese. È corretto, è giusto, è anche una forma ricercata e aulica. E te pareva che Mario Monti non parlasse con una forma ricercata e aulica? Però l'accento era sempre un po' pesante, diciamo, l'accento adesso sì, non era robotico. Non era robotico come sempre. Allora vi devo sottoporre questa notizia. Per il 21 dicembre voi avete fatto programmi per la famosa fine del mondo. Maya, infatti. Allora, perché l'ho letta su Libero, e quindi, visto che è su Libero c'è il nostro vice direttore. Confessioni boom. Sai che succede, Vincino? La gente va a confessarsi. C'è un prete di Milano che dice: non ho mai visto così tante confessioni, soprattutto di non cristiani, che in vista del 21 dicembre... Sono gratis. Sì, consiglio così, quella, come dire, uno invece di andare al psicanalista va dal prete. Ma no, ma vanno per salvarsi l'anima prima della fine del mondo. Ci provano, come dire, dai, tanto... anche, cioè, tutti i grandi della storia poi alla fine, negli ultimi momenti, si convertono. È Umberto Bossi a Medjugorje è andato. Fortuso, Manzoni, tutti si sono convertiti in fine di mondo. Manzoni, ma non... Manzoni era cattolico subito. Quello era uno terribile. Basta, adesso Vincino c'era anche con Manzoni. Ma no, non è vero. Anche con Manzoni. Vincino alla fine lo sa, deve stare... Non è parente, comunque sono grandi del passato, tutti avevano ognuno altro che olgettine. Vabbè, altro che olgettine. Vabbè. No, le olgettine torneranno, tanto lasciamole lì per ora. Vi ringrazio Vincino e grazie a Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Ci ritroviamo dopo il GR delle 7. Lo vogliamo dire, visto che sono qui da lei, che una, due lacrimucce di Fornero sono state ridicolizzate per un anno, mentre quelle di Vendola sono un segno di sensibilità virile, per non parlare di quelle di Bersani. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. Ventiquattro Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:20, ben ritrovati per la lettura dei giornali. Se vi siete svegliati adesso, come al solito, siete i benvenuti. Comunque, oggi avremo ospite tra un'ora scarsa, alle 8:15, l'onorevole Giorgia Meloni del Popolo della Libertà. E poi parleremo sempre di politica, attualità. Abbiamo titolato la puntata di oggi con gli ospiti Eterna Monti, eh? Rimane Monti? Si ricandida Monti? Vorreste mantenere in qualche modo Mario Monti invece della vecchia politica che si profila all'orizzonte? Ne discuteremo alle 8:30 anche con ospiti il sindaco di Varese della Lega Attilio Fontana e il presidente delle ACLI Andrea Olivero, che è uno dei quali, uno di quelli che si sta spendendo per una candidatura comunque a premier di Mario Monti. Ne parliamo più avanti. Ora i giornali per l'appunto. Martedì 11 dicembre i titoli sono tutti declinati alla giornata molto nervosa sulle borse, all'addio di Mario Monti, alla possibilità che Mario Monti torni. Eccoli qui i titoli. Allora, il Sole 24 Ore, effetto crisi su spread e borsa. Questo è il titolo di apertura, mentre il Corriere della Sera, l'Europa, l'Italia dia garanzie. Repubblica, l'addio di Monti gela le borse. Il Fatto Quotidiano è addirittura più esplicito. Lo spread vuole Monti. Il Messaggero, borsa e spread, allarme Unione Europea. La Stampa, l'Italia spaventa Unione Europea e mercati. Il Giornale, i mercati in crisi, il giorno degli sciacalli. Libero, lo scrive il Financial Times, Monti è una bolla. L'Unità, la crisi spaventa l'Europa. Avvenire invece è certo, quando titola Monti, conto alla rovescia. Entro tre giorni, secondo Avvenire, Monti scioglierà i dubbi sulla sua possibile candidatura. Pubblico mette Berlusconi agghindato a mummia, come era il titolo di Liberation, per chi suona lo spread. Il Manifesto, miseria e povertà, e sono raffigurati Berlusconi e Monti. Il Secolo XIX, la crisi italiana, allarma l'Unione Europea. Come vedete, titoli tutti simili su questo tema. Io prima però voglio partire da questa notizia, un po' l'abbiamo anticipata anche nel nostro Bar in Onda alle 6:30. Classica notizia da mani sul volante se state guidando, ma era abbastanza chiara, l'avevamo già detto, si profilava questa solita pagliacciata, possiamo utilizzare questo termine. Ebbene, ora c'è la conferma, il riordino delle province è saltato. Alla prossima occasione, eh? Peccato, perché questa volta pare ci fossero andati davvero vicini dopo 20 anni di discussioni. Salta il riordino delle province, pagina 11 del Sole 24 Ore, ma tutti i giornali fanno una pagina, addirittura Paolo Baroni sulla Stampa, pagina 10, mette anche un'ora certificata sulla morte della riforma delle province, morta ieri in Senato poco dopo le 22. Riposi in pace, aggiungo io. Salta il riordino delle province. Allora Davide Colombo sul Sole 24 Ore, torniamo a pagina 11. Troppi sub emendamenti, 140, E qui ci sarebbe da aprire una parentesi, ma come il senatore Fazzone, nostro ospite settimana scorsa, lui di emendamenti ne ha presentati 300 da solo a questa riforma, ha detto che non c'entrava niente il numero alto di emendamenti, non era un modo per far affossare la riforma. Vai a capire, troppi subemendamenti, troppo poco tempo per esaminarli. Con questa motivazione, nella serata di ieri, i senatori della Commissione Affari Costituzionali hanno scritto la parola fine sul decreto di riordino delle province. Ricordate anche il ministro Cancellieri, il ministro Patrone Griffi che si sono presentati in conferenza con una cartina dell'Italia, con il riordino, ecco come saranno le nuove province, ne verranno accorpate 51... cioè da 86 a 51 si scenderà, quindi ne verranno accorpate poco più di 30. Abbiamo scherzato. Ieri il ministro Patroni Griffi ha preso atto, il governo ha fatto quello che poteva, ora ha preso atto della situazione. Decreto delle province, alla prossima legislatura. Province, il decreto su un binario morto anche per la stampa. Il giorno, province saltano i tagli, il governo getta la spugna. È fatta su Libero a pagina 12, la solita casta salva le province senza vergogna. Insomma, provvedimenti che saltano, non tutti per la verità, non tutti. Oggi il Fatto Quotidiano e il Manifesto fanno una pagina invece su un altro provvedimento che questo pomeriggio potrebbe vedere la luce in fretta e furia. Questa volta c'è l'appoggio bipartisan di PD e PDL, dei due maggiori partiti. Di che cosa si tratta? Si tratta della riforma delle forze armate, che prevede tra l'altro che cosa? Beh, prevede anche la conferma dei contratti per i famosi, o per qualcuno famigerati, F-35, i cacciabombardieri. Prima di uscire provano a salvare i cacciabombardieri, così è il titolo del Fatto Quotidiano a pagina 4. Oggi alla Camera inizia il voto finale sulla riforma delle forze armate, che prevede meno soldi per gli stipendi e più investimenti per comprare armi. Nel caos dell'imminente caduta, scrive Giorgio Meletti, il governo tecnico si prepara a mettere in salvo uno dei provvedimenti più cari, la riforma delle forze armate nel segno degli F-35. Una legge bipartisan che piace a PD e PDL. Sarà accolta anche con una protesta bipartisan, un sit-in davanti a Montecitorio oggi, che vedrà unite per una volta le rappresentanze militari del COCER con i pacifisti. I primi si battono contro una riforma che determinerebbe uno spostamento di ingenti risorse dalle spese per il personale all'investimento. I secondi invece contestano esattamente la stessa cosa, ma con una diversa sfumatura. Se i militari sono preoccupati per i posti di lavoro, i pacifisti contestano che tutti i risparmi vengano destinati a comprare più armi. Tra questi anche i famigerati F-35, anche sul Manifesto in prima pagina viene messa questa notizia. Giulio Marcon, il regalo di Natale, gli F-35 sotto l'albero. Oggi alle 15, Camera dei Deputati dovrebbe approvare in via definitiva il disegno di legge di delega sulla riforma delle forze armate e della difesa. Si tratta di un regalo di Natale che il governo ci lascia prima di dimettersi, un regalo fatto alla casta dei militari, alla lobby degli armieri e al ministro Ammiraglio. Questa è la posizione del Manifesto. Il ministro Ammiraglio è il ministro Giampaolo Di Paola, scrive anche il Fatto Quotidiano. Proprio lui, anni fa, un trionfo personale, i cacciabombardieri americani sono una vecchia passione dell'ammiraglio, così addirittura viene definita sul Fatto Quotidiano. Insomma, niente province, ma gli F-35 sì. Ah, giusto per la cronaca, Libero e Il Giornale si concentrano su un'altra notizia. Hanno beccati altri 81 assenteisti nel pubblico a Messina soprattutto, ma non solo. Sì, soprattutto a Messina, anche a Caserta, soprattutto alla ASL e allo IACP, cioè l'Istituto Case Popolari di Messina. Sì, ecco qui, Messina e Caserta unite da un invisibile filo per un giorno, una brutta pagina di assenteismo dal posto di lavoro, il classico dell'Italia, insomma, la carica degli assenteisti, 138 indagati, titola per esempio Il Giornale. A pagina 18, all'ASL 2 di Caserta, indagati 57 dipendenti, 28 hanno ricevuto un provvedimento cautelare dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. Un gran classico, timbravano ma non andavano a lavorare. A Messina invece coinvolti 81 impiegati su 91, 81 impiegati su 91. anche per Libero, beccati altri 81 assenteisti nel pubblico, ma come tanti altri restano al lavoro. Allora, le 7:34 minuti, come detto, molti quotidiani, la maggior parte dei giornali titolano sulla giornata di borsa ieri molto nervosa dopo gli ultimi avvenimenti in Italia, la decisione di Mario Monti di dimettersi dopo l'approvazione delle leggi di stabilità. E dunque, tensione sull'Italia, lo spread è salito a 351 punti, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 3. Con Vittorio Carlini che scrive: la fine del governo Monti, di fatto voluta da Silvio Berlusconi, ha prodotto ieri i suoi effetti sul mercato. Non era difficile immaginarlo nell'ultima seduta, come peraltro già accaduto giovedì scorso, quando il centrodestra ha annunciato la stensione sulla fiducia al decreto sviluppo. I rendimenti dei titoli di Stato italiani sono saliti, gli investitori cioè hanno venduto il nostro debito pubblico. Così il saggio del BTP decennale in avvio di seduta è subito cresciuto, arrivando a superare poco dopo mezzogiorno il 4,9%. In quel momento lo spread con il Bund a 10 anni ha toccato i 362 punti base, poi si è attestato appunto a 351. E, insomma, i mercati sono nervosi. Molti dicono: ma perché dobbiamo guardare sempre ai mercati, la dittatura dei mercati? Allora, con questo principio, visto che comunque o a febbraio o ad aprile, prima o poi questa legislatura doveva finire, dovrà finire, e allora a questo punto che facciamo? Non votiamo più perché i mercati sono nervosi? Per la verità è lo stesso premier Mario Monti che ieri in qualche modo ha detto: non devono essere drammatizzati questi dati del mercato. E per la verità anche Giuseppe Vegas, vale a dire presidente della Consob, in un colloquio con Osvaldo De Paolini sul Messaggero a pagina 5 dice: attenzione, ecco che la bufera passerà presto. Qualunque governo uscirà dalle urne dovrà rispettare certo gli impegni con l'Europa, ma la situazione è diversa, molto diversa rispetto a un anno fa. Ora il fabbisogno è ridotto, non bisogna essere pessimisti. E lo stesso Vegas in questo colloquio con il Messaggero dice: poteva andare peggio. La preoccupazione sul ruolo delle banche nella ripresa non è però svanita. Certo, ci vuole la vigilanza della Banca Centrale Europea, ma come esordio poteva andare peggio. Il calo in borsa c'è stato, lo spread è salito, ma a ben vedere niente di drammatico, il che non vuol dire che la bufera sia alle spalle. Così il presidente della Consob Vegas. La verità è che gli occhi ieri dell'Europa erano tutti puntati su Mario Monti. Ieri c'era questa cerimonia per la consegna del Nobel della Pace all'Unione Europea e dunque tutti i leader dell'Unione Europea erano a Oslo. E che cosa è successo a Oslo? Beh, a dare retta ai giornali c'è un pressing, questa è la parola più utilizzata, un pressing dei vari leader europei, soprattutto la Merkel, soprattutto Hollande, a Mario Monti affinché in qualche modo rimanga, se candidato premier, o comunque che mantenga un impegno da tecnico a politico anche dalla prossima legislatura. Il pressing dei leader europei sul premier, e così titola per esempio il Corriere della Sera pagina 6 Luigi Offeddu, Italia osservata speciale, racconta Offeddu: ci sono 20 sedie vuote disposte lì in prima fila, su due file, le prime due. Ed ecco che anche durante il concerto varie volte la Merkel si gira, scambia parole con Mario Monti. Tutti hanno chiesto, Merkel e Hollande lo hanno fatto in un incontro a tre con il premier italiano subito dopo il pranzo ufficiale. Uno degli Sherpa, vale a dire i consiglieri diplomatici di esteri, dice: volevano sapere, Merkel e Hollande, che cosa sta succedendo nel vostro paese. Si potrebbe aggiungere come una battuta: vorremmo saperlo anche noi. In ogni caso, secondo Gerardo Pelosi, sul Sole 24 Ore, c'è anche un retroscena di quello che Mario Monti avrebbe detto in questo blindatissimo pranzo con Merkel e Hollande, pranzo dal quale non è trapelato nulla dei discorsi più interessanti, che potrebbero essere più interessanti per noi. Ma secondo Gerardo Pelosi una cosa è trapelata: che cosa avrebbe detto Mario Monti a Hollande? Avrebbe detto questo: neppure un abile incantatore come Berlusconi potrà fare più breccia in un paese reso adulto e maturo dalla crisi. Questo avrebbe detto Mario Monti di Berlusconi al presidente francese Hollande. Certo, poi invece in conferenza stampa le parole, quelle le abbiamo sentite tutti, Monti ha detto che attenzione alle spinte populistiche, ce ne sono ovunque, anche in Italia, ma gli italiani non sono sciocchi, eh? Avete capito? Ha detto non sono sciocchi gli italiani, anche i giovani sono ormai adulti, sono in grado di scegliere, sono in grado di capire. Ecco, su una cosa Mario Monti non ha ancora svelato nulla, è la sua possibile candidatura. Ora si è detto tante volte, Mario Monti non ha bisogno di candidarsi formalmente perché è già senatore a vita. E quindi siccome andremo a eleggere il prossimo Parlamento, lui in Parlamento c'è già e ci sarà per sempre. Ma è sempre più evidente la possibilità che una lista centrista da Casini a Montezemolo possa in qualche modo indicare in Mario Monti il premier. Ebbene, su questo Mario Monti non si è sbilanciato. La domanda, scrive anche La Stampa con Marco Zatterina, la domanda di un giornalista norvegese. Che cosa farà adesso? In questo momento non considero l'evenienza di candidarsi. Così risponde Monti a una giornalista norvegese che lo interroga su una sua possibile candidatura alle prossime elezioni. L'articolo lo trovate a pagina 3 della Stampa. Marco Zatterin, il titolo è "Non penso di tornare al governo almeno in questo momento". C'è sempre questa aggiunta, almeno in questo momento. Per la verità la vede in modo alquanto diverso Avvenire. Avvenire è il giornale che si sbilancia un pochino di più su questo fronte. Monti candidato, 2 giorni per decidere, addirittura sarebbe imminente, secondo il quotidiano della CEI, la decisione in qualche modo di Mario Monti. Il premier è pronto a sciogliere la riserva. Altre 48 ore di tempo e prima di partire per Bruxelles per l'ultimo importantissimo Consiglio europeo dell'anno, Mario Monti deciderà se scendere in campo per guidare da candidato a Palazzo Chigi una federazione dei moderati distinta e distante dalla destra e dalla sinistra radicale, dare un semplice avallo a tale schieramento o restare di riserva. Quindi entro 2 giorni, secondo Avvenire, Mario Monti prenderà una decisione sulle 3 possibilità, o candidarsi a premier, o dare un semplice avallo a tale schieramento, ma stando un po' di lato, oppure restare di riserva, in ghiacciaia, come gli ha consigliato per esempio di fare Pierluigi Bersani. Secondo il Secolo XIX, ovviamente qua siamo tutti ai retroscena, alle indiscrezioni, tornano i retroscena della politica, come speriamo non tornino le risse televisive, ma temiamo che sarà un po' così, visto che riparte una campagna elettorale. Torna in retroscena della politica. Allora Giovanni Palombo sul Secolo XIX a pagina 3 racconta che ci sono una serie di ministri che spingono perché il prof, così viene definito il professor Monti, vada in campo con la lista Italia. Forti sollecitazioni anche dall'Europa, scrive Giovanni Palombo, il presidente del Consiglio è tentato. Lo avrebbe confessato anche ai leader europei che ieri a Oslo gli hanno chiesto di scendere in campo per evitare derive populistiche che rischiano di creare danni irreparabili all'Italia. L'unica cosa certa al momento però è che Monti ha deciso di accelerare. Presto, forse prima del voto sulla legge di stabilità, esporrà in modo chiaro le proprie intenzioni. E ci sarebbero i ministri Passera, Ornaghi e Riccardi, secondo il Secolo XIX, in prima fila nel progetto per cercare di fare di insistere su Monti perché si candidi o comunque si impegni in maniera precisa. Queste le reazioni sia dell'Europa sia di Mario Monti. L'Europa ovviamente attende con grande preoccupazione. Berlusconi è molto arrabbiato, ha detto dall'Europa reazioni totalmente offensive. Addirittura un giornale, Liberazione, ha scritto il ritorno della mummia. C'è un giornale che ha messo la faccia di Berlusconi dentro un cesso, dentro un water. Cioè siamo a questi livelli di reazione da parte di parte della stampa. E allora Berlusconi ha preso carta e penna ieri insieme al suo portavoce Paolo Bonaiuti per firmare un comunicato nel quale si parla di mosse, di reazioni offensive. Si vogliono indebolire le nostre aziende e secondo il retroscena di Repubblica, pagina 12 di Carmelo Lo Papa, Berlusconi ora sospetta addirittura Monti, c'è lui dietro gli attacchi europei. la dimostrazione che lo spread è più che un indicatore finanziario, è una clava che usano a fini politici come un anno fa. E ancora dall'altra parte, però un po' ringalluzzito, come dire, se reagiscono così le cancellerie europee e la parte della stampa europea, vuol dire che mi temono. D'altronde, ha ironizzato, sono l'uomo nero. Così Berlusconi, reazioni eccitate anche per il Corriere della Sera, anche se il partito è in fibrillazione sicuramente. Noi avremo ospite Giorgia Meloni alle 8.15, una delle esponenti che più si è detta un po' scettica a cercare di capire che cosa dovrà fare per queste giravolte continue di Berlusconi. Che cosa è successo per esempio ieri tra Alfano e Dell'Utri? Una rissa verbale in piena regola. Prima Dell'Utri aveva fatto un'intervista a Repubblica due giorni fa dicendo che tante delle colpe della situazione del PDL erano da imputare proprio ad Angelino Alfano, al segretario che non aveva preso in mano la situazione. Al che, sentite come ha reagito ieri Alfano a questa accusa: molti dei guai del nostro partito derivano da soggetti come Dell'Utri, un povero disgraziato per quello che gli sta succedendo. Parla a ruota libera facendo credere che le sue parole siano i pensieri di Berlusconi. Anche Dell'Utri gli ha replicato: e tu non hai le palle. Insomma, volano anche questo tipo di stracci, volano questo tipo di accuse all'interno di un partito, il Popolo della Libertà, sicuramente ancora diviso e ancora incerto a capire che cosa farà Berlusconi. Perché la domanda è questa, e vi lascio prima delle informazioni sul traffico con questa: ma voi siete sicuri che Silvio Berlusconi si candidi? No, perché anche Maroni, il segretario della Lega, ha detto: secondo me alla fine Berlusconi non correrà. Correrà Berlusconi? Io non ne sono così sicuro. Il traffico. Dall'altra parte anche Bersani, in un'intervista a Wall Street Journal, ha detto e ha consigliato a Mario Monti in qualche modo di non candidarsi. Secondo un retroscena di Repubblica è un consiglio molto poco disinteressato, perché lo stesso Bersani, che è il candidato numero uno alla possibile vittoria secondo tutti i sondaggi alle prossime politiche, teme in realtà che una candidatura di Mario Monti tra i centristi faccia perdere voti al centro-sinistra. Così è più difficile anche il Colle. Il Premier riflette sulla candidatura, scrive a pagina 11 Goffredo De Marchis su Repubblica, e Pierluigi teme l'operazione centrista. Mario in campo ci fa perdere voti. Insomma, la situazione politica è questa. Ieri si è assistito anche, l'avete sentito anche nell'audio del giornale radio, a una situazione pseudopolitica addirittura all'interno dell'aula del tribunale al processo Ruby, dove la stessa Ruby ruba cuori, Karim Al-Marug, che era attesa come teste al processo, è svanita nel nulla. Dov'è Ruby? Oggi il Fatto titolo: cercasi Ruby disperatamente. Il PM Ida Bocassini ha detto: io non credo a quello che ci sta dicendo l'avvocato difensore di Ruby, e cioè che è scomparsa, doveva essere testimone, e ha accusato Ida Bocassini e gli avvocati e anche l'avvocato di Berlusconi di utilizzare questa tattica dilatoria. In qualche modo non l'ha detto, ma ha detto: non credo a questa situazione, come dire, le hanno detto vai all'estero, ecco, traducendo praticamente ha detto così, per prendere tempo e non arrivare alla sentenza prima della campagna elettorale. Eccolo qui che allora Ghedini è insorto dicendo: ma questo è diffamatorio, l'avvocato difensore di Berlusconi, chi sta facendo campagna elettorale è la procura, in questo caso Ida Bocassini. Insomma, la politica è entrata prepotentemente anche nel processo Ruby, se già non c'era peraltro. Volete arrivare fino al voto? Questo è lo scontro Bocassini-Ghedini che leggete a pagina 16 del Corriere della Sera con Giuseppe Guastella, e tra l'altro un retroscena sulla caccia alla testimone. Dov'è Ruby? Una pista porta in Francia, il telefonino di Karim Al-Marug è irraggiungibile da una dozzina di giorni, come quello del compagno Luca Risso, padre della sua bambina. Sono il fulcro di questo processo, disse il 25 ottobre Karim Al-Marug. Chiamatemi come testimone, io andrò a testimoniare, ma invece non è andata, è sparita. In Francia, oppure negli Stati Uniti, oppure in Messico, li sta cercando la polizia. Bocassini ha detto: li si cerchi ovunque. Dove è finita? Ruby non si trova, slitta il processo, titola anche così il Fatto Quotidiano con l'articolo di Gianni Barbacetto. Vabbè, passiamo alla cronaca. La cronaca, ieri è successo un disguido mica male per molti pendolari che vanno in treno in tutta la Lombardia soprattutto. Che cosa è successo? Oggi il Corriere della Sera lo racconta molto bene. Caos treni, nuovo software lascia a casa i macchinisti. Il titolo è un po' da approfondire. Cosa vuol dire nuovo software lascia a casa i macchinisti? Ebbene, è andato in tilt il sistema delle Trenord. Per chi è pendolare soprattutto al nord, in Lombardia, sulle tratte Varese, Como, Monza, Saronno, Mantova, Cremona, Milano, ieri ci sono stati ritardi di 20 minuti, anche di più. Pare che oggi debba essere sistemato tutto, quindi se dovete prendere il treno, lo state prendendo o siete in ritardo, non lo so, fateci sapere in qualche modo. È andato ieri in sistema il sistema del software, il software completamente in tilt, ed era un sistema nuovo che doveva assegnare che cosa? Il macchinista tot, il macchinista Pinco Pallino vada a guidare questo treno, il capotreno Pinco Pallino vada su quest'altro treno. È andato in palla tutto, per cui scrive il Corriere della Sera pagina 22-23, ci sono state delle scene da barzelletta. È successo che ieri mattina 5 macchinisti si siano presentati per guidare lo stesso treno, perché il software impazzito ha assegnato 5 macchinisti a un treno. Proprio un treno che poteva avere un macchinista e 4 sostituti. E invece c'erano treni ai quali non era stato assegnato nessun macchinista. Nel migliore dei casi si è partiti in ritardo, nel peggiore dei casi sono stati soppressi anche dei treni. Scene da tragicommedia, le Ferrovie Nord che dicono c'è stato effettivamente un malfunzionamento del nuovo sistema informatizzato di programmazione e gestione dei turni entrato in funzione proprio ieri, cioè domenica. Cioè era entrato in funzione il sistema che doveva rivoluzionare tutto in positivo l'assegnazione dei turni del personale, è stato un disastro, almeno per quel che riguarda la prima giornata. Caos treni, eccolo qui, il nuovo software lascia a casa i macchinisti. A proposito di cronaca, voglio anche chiudere con questo. Dominique Strauss-Kahn, ve lo ricordate, accusato di stupro, ha chiuso la faccenda in America. Milioni di dollari alla cameriera. Così Strauss-Kahn chiude lo scandalo. Lo trovate su Repubblica, pagina 13, è stato siglato un accordo per le quali le parti si impegnano a non rivelare nulla, soprattutto sull'entità dell'importo, ma dalla Francia si vocifera di 6 milioni di dollari passati da Strauss-Kahn a Nafissa Thieu Diallo, la cameriera che è stata violentata, o poi non si è capito bene se il rapporto era consenziente, per molti è stato un complotto, eccetera. Sta di fatto che è stata chiusa la vicenda con milioni di dollari alla cameriera. Così Strauss-Kahn chiude lo scandalo, un siglato l'accordo che cancella l'accusa di stupro all'albergo Sofitel. E a lei 6 milioni di dollari, forse, e via, cancellate le accuse. Ci fermiamo, è tempo di giornale radio. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci allora a parlare di attualità politica, l'attualità politica che è ovviamente l'annuncio del ritorno di Silvio Berlusconi e i mercati nervosi e Mario Monti che farà. Vogliamo discutere di questo con l'onorevole Giorgia Meloni, che saluto, buongiorno del Popolo della Libertà, buongiorno onorevole Meloni. Ci sente? Eccoci. Sì, perfetto. Senta, lei è una di quelle che ha manifestato più dubbi, anche più critiche sulla ricandidatura di Berlusconi, perché l'ha definita un errore? Guardi, perché penso che fosse giusta la scelta che Silvio Berlusconi ha fatto quando ormai oltre un anno fa ha scelto di investire su un'altra generazione, quindi su Angelino Alfano per la sfida alla premiership. e soprattutto voglio dire nel momento nel quale nel centro-sinistra diciamo perdeva il rinnovamento, valeva la pena insomma di gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo nella nostra metà campo, e quindi io avrei confermato quella scelta. Dopodiché c'è anche un problema di metodo, perché noi avevamo, come voi sapete, dato vita a un percorso molto affascinante sul tema delle elezioni primarie, perché si potesse chiedere agli italiani di indicare il nostro futuro candidato premier. Interrompere bruscamente quel percorso dopo che lo avevamo deliberato, poi ci eravamo fermati, poi lo avevamo rideliberato, poi avevamo approvato il regolamento, abbiamo bene o male raccolto praticamente 200.000 firme a sostegno dei vari candidati nella competizione, poi scegliere da lì bruscamente di tornare indietro, secondo me è una cosa che crea qualche, diciamo così, che crea confusione, ecco, nell'elettorato, tra gli italiani che non capiscono esattamente che cosa siamo. Ma tanto che lei ha anche, non ha escluso la possibilità di uscire dal Popolo della Libertà, che fa? Rimane? Esce? Ma guardi, io sono una persona abituata, diciamo così, a battersi per quello in cui crede. Credo ancora nell'esperienza e nella sfida per la quale, come tanti altri, ho investito tutto quello che avevo in termini ideali e politici nella sfida di stabilizzare il bipolarismo italiano, quindi di produrre un grande partito del centrodestra che possa dare una casa comune a identità diverse e tutte dignitose come accade nel resto d'Europa. Quindi è una sfida nella quale continuo a credere, però è evidente che per credere in quella sfida si deve avere un partito che è in grado di dare alcune risposte. Ci sono delle cose che sulle quali noi non possiamo continuare a far finta che vada tutto bene. Io ho detto, insomma, no, ci sono dalle candidature degli impresentabili fino a un partito che appunto prende delle decisioni e poi se le smentisce di fatto a mezzo stampa senza neanche riunirsi. Ci sono troppe cose che francamente... Però onorevole Meloni, non è sempre stato un po' così, cioè si è sempre accusato il PDL di essere un partito di plastica, diciamo. Allora, sicuramente il PDL è un partito che non si è mai strutturato come avrebbe dovuto fare, e è un partito nel quale noi abbiamo pensato, sbagliando, che avendo una leadership molto forte potevamo rinunciare anche a strutturare anche un partito come accade nei partiti tradizionali, e questo in qualche maniera oggi lo paghiamo. Però devo dire, insomma, rispetto a quello che è accaduto negli ultimi periodi, insomma, un minimo per quello che riguarda per esempio le riunioni, insomma, la capacità di deliberare delle scelte, insomma, almeno la forma. Se la forma è ultimamente siamo preoccupati di salvarla. Senta, adesso adesso no, ma secondo lei Berlusconi si candida davvero oppure è possibile anche un'ulteriore ennesima giravolta? Cioè lei lo dà per certa la candidatura di Berlusconi? Guardi, lui la dà per certa, mi pare di capire, nel senso che chi ha parlato col presidente in questi giorni e mi pare anche, insomma, dalle dichiarazioni che vengono riportate dalla stampa, dice che lui sarebbe estremamente determinato a candidarsi. Quindi, insomma, io non ho motivo di credere che torni ancora indietro, però insomma non saprei sinceramente. Non saprebbe, però le reazioni le ha viste, le reazioni europee di parte della stampa, anche di alcuni esponenti politici molto molto critici. Lei come giudica queste reazioni? Questo è un altro tema, nel senso che purtroppo io ho motivo di credere che questo sarebbe accaduto comunque all'atto, diciamo, della fine del governo Monti, quindi a scadenza naturale. Noi ci dobbiamo ricordare anche, insomma, rispetto al tema della crisi di governo, su questo ha ragione Angelino Alfano, che saremmo andati a votare in Election Day al 10 di marzo, stiamo andando a votare di fatto al 24 di febbraio, non è che è cambiato molto. Il punto è che quando si sceglie, e questo è un peccato originale, diciamo, che la politica ha e sul quale anche ho tentato di battermi al tempo, contro il quale ho tentato di battermi, quando si dice ai mercati e alle consorterie europee che in qualche maniera i governi si possono scegliere sulla base delle oscillazioni dei mercati e non li scelgono i popoli, è evidente, insomma, che poi i mercati ritengono di poter, ogni qualvolta ci siano degli snodi importanti, di poter dare la loro indicazione per in qualche maniera, insomma, no? No, ma certo, la dittatura... Immaginare... La dittatura dei mercati no. È un problema, e io penso che sarebbe accaduto lo stesso all'atto della fine del governo Monti, cioè quando noi fossimo andati a naturale scadenza elettorale e quindi a libere elezioni, indipendentemente dalla candidatura di Berlusconi, a meno di una candidatura di Mario Monti, io penso che noi avremmo visto comunque la stessa oscillazione dei mercati. Su questo, perché i mercati su questo... ritengono che in Italia debba governare Mario Monti, perché dà una serie di garanzie, e quindi, siccome noi gli abbiamo detto, guardate che se voi vi oscillate molto, noi bene o male ci facciamo dire che cosa dobbiamo fare, ci hanno preso su questo gusto, sicuramente si può essere d'accordo, ma che ci sia un problema di credibilità di Berlusconi, secondo lei c'è oppure no? A livello europeo, Ma guardi, a me, ripeto, questo è un tema che interessa fino a un certo punto, nel senso che noi siamo una nazione complessivamente, per come si è comportato, un problema di credibilità della sua classe politica, perché siamo l'unica nazione al mondo che si è fatta imporre un governo dai mercati e l'unica nazione al mondo che di fronte anche a una difficoltà non è andata a libere elezioni, come ricordo essere accaduto ad esempio in Grecia, che aveva dei fondamentali dell'economia molto peggiori dei nostri, è andata a votare 2 volte in 2 mesi, come è accaduto anche in Spagna, che aveva pure essa dei fondamentali dell'economia peggiori dei nostri. Quindi, diciamo, io il tema di quello che è accaduto con Schulz 2 giorni fa, che anche lui da presidente del Parlamento europeo, quindi che dovrebbe avere, diciamo, un ruolo assolutamente super partes, ma da esponente dichiarato del Partito Socialista Europeo, si mette lì a sindacare sui esponenti della nostra politica, è una roba, francamente, insomma, a me non mi preoccupa particolarmente. Penso che ci si debba preoccupare di quello che pensano gli italiani, perché noi facciamo spesso l'errore di preoccuparci più di quello che accade oltre altre, che pure è importante, per carità, perché siamo all'interno dell'Unione Europea, ma senza preoccuparci quello che accade per gli italiani, esattamente come ci preoccupiamo dello spread, e che sembra diventato il dato per noi più importante, ma non ci preoccupiamo dei dati sulla disoccupazione, che secondo me sono più importanti. Ma invece che ne pensa se Monti dovesse impegnarsi politicamente, magari battezzando o accettando di diventare candidato premier per un'ala centrista? Ah, guardi, questa è fantapolitica per ora, quindi insomma io tendo a non commentare delle cose che di fatto non stanno sul piatto. Posso dire che francamente in questo caso, per carità, il Presidente Monti è libero di fare tutte le scelte che vuole, ma deve tenere conto del fatto che nell'ultimo anno è stato il Premier di una nazione grazie alla responsabilità di forze politiche trasversali che hanno votato i suoi provvedimenti, in molti casi non condividendoli, e che quindi utilizzare adesso chiaramente quel lavoro, utilizzare adesso anche quella credibilità che avere un certo tipo di maggioranza e un certo tipo di solidarietà istituzionale gli ha garantito per diciamo capitalizzare politicamente, avrebbe qualche controindicazione. Ma perché siccome può farlo essendo una persona libera, cioè sarebbe certo, scorretto fare, secondo ovvio, sare... Non ho detto che sarebbe scorretto, ho detto che deve tenere conto di bene o male di che cosa è accaduto nell'ultimo anno, insomma, no, anche quando anche dico scendesse anche per come fare la campagna elettorale, insomma, ecco, penso che debba tenere conto del fatto che bene o male il suo caso è un caso unico al mondo, ecco, questo è importante ci sarà domenica si doveva tenere le primarie del centrodestra, per cui sì, una manifestazione per la quale lei si era battuta alle primarie, e invece ci sarà questa manifestazione, tra l'altro ci sarà anche l'onorevole Crosetto, uno che ha abbandonato un talk in dissenso su quello che stava succedendo. Ma quanti siete secondo lei a manifestare disagio all'interno del partito, del Popolo della Libertà? Siete in tanti, in pochi? Guardi, io credo che ci sia parecchia gente, soprattutto a livello, diciamo, di classe dirigente intermedia, cioè non tanto, io tendo a guardare poco a livello dei parlamentari, mettiamola così, a guardare molto quello che accade sul territorio, soprattutto perché insomma quelli che stanno sul territorio, che poi sono quelli che nella maggior parte dei casi vengono eletti a preferenza, sono anche coloro che hanno più attenzione nei confronti, diciamo, degli umori della gente, degli italiani, che sono più abituati insomma a stare in mezzo alla strada, e è sempre, diciamo, un palcoscenico privilegiato. Io credo che ci sia tanta gente che chiede un Popolo della Libertà che sia un partito diverso, e quindi un centrodestra anche diverso da quello che noi abbiamo visto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, che possa essere un partito che torna a basarsi su parole d'ordine che possono essere meritocrazia, che sono consenso, che torni, diciamo, a rimettere i contenuti al centro, quindi i problemi degli italiani, grande interprete della questione giovanile, delle donne, dei problemi del lavoro, delle categorie. Insomma, io ecco. Ma se questo non è. Penso sia arrivato il momento di dire tutto questo. E quello che noi faremo, una manifestazione il 16 con Guido Crosetto, ma anche con altri, è diciamo fare quello che sarebbe accaduto se si fossero celebrate le elezioni primarie. No, questo sì. E cioè tornare a concentrarci sui contenuti e su una nostra idea d'Italia, che è anche una nostra idea di centro. Però se non è così, lei si è detta pronta anche a non far parte più di questo PDL? Cioè cosa vorrebbe dire costituire sempre... Ma io ho detto che questo lo vedremo. Detto che sono una... L'ho già risposto a questa domanda. Io sono una persona abituata a battersi per quello in cui crede. Non sono una persona che ha per forza bisogno di avere un seggio parlamentare, ok? Quindi dico quello che penso, perché? Perché è più utile per tutti, è più utile per me, è più utile per il centrodestra, è più utile per l'Italia, o almeno ho la presunzione di ritenere che siano più utili le persone che pongono dei problemi piuttosto che quelle che stanno sempre a dire sì. Dove questo mi porta lo vedremo nei prossimi giorni. Ultima domanda, e la questione ha visto la schermaglia verbale tra Dell'Utri e Alfano. Dell'Utri ha detto è colpa di Alfano e Alfano ha detto è un povero disgraziato, al che Dell'Utri ha risposto non ha le palle. C'è anche questo. Lei in un ideale PDL dovesse rimanere, sta più dalla parte di Alfano o di Dell'Utri? In un ideale PDL nel quale dovessi rimanere direi che sarei più dalla parte di Alfano. E Dell'Utri sarebbe candidabile secondo lei? Sarebbe presentabile ancora in politica? Io penso che in un PDL nel quale vorrei rimanere ci sono alcune persone alle quali sarebbe bene chiedere di fare un passo indietro in questa tornata elettorale. Ma e Dell'Utri è una di queste? Dell'Utri è una di queste. Va bene, la ringrazio, buona giornata ovviamente. Grazie per essere stata con noi. Giorgia Meloni, onorevole Popolo della Libertà. Domenica ci sarà questa manifestazione per cercare di capire quale sarà anche il suo percorso politico, se ancora all'interno del PDL oppure no. Noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi anche col vostro coinvolgimento, cari ascoltatori, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Vogliamo parlare allora di Monti, ma Monti, Mario Monti, l'abbiamo titolata così questa parte di trasmissione, Eterna Monti. Vorreste mantenere Monti perché i mercati chiedono questo? Addirittura oggi il Fatto Quotidiano titola così: lo spread vuole Monti. E che lo spread vota? Oppure pensate che debba ritornare la politica, se non considerate Monti un politico? C'è una formazione centrista che spingerebbe per ottenere un avallo di Mario Monti perché sia candidato a premier. Anche Bersani gli ha detto è meglio che stia fuori dalla partita. Che ne pensate? Ne parliamo tra poco dopo la pubblicità del meteo. 24 mattino. Eccoci alle 8:36. Allora, Eterna Monti, abbiamo voluto titolare così questa parte di trasmissione. Come dire, pare, a seconda indiscrezione dei giornali, che ci sia un pressing sempre più asfissiante anche per l'attuale premier, in qualche modo, a rimanere in campo, a rimanere della partita. Lo avrebbe fatto questo pressing sia la Merkel sia Hollande. Secondo il Secolo XIX oggi ci sono dei ministri che spingono per questo, soprattutto Passera, Ornaghi e Riccardi. C'è una linea centrista, oggi c'è anche una manifestazione importante, c'è Luca Cordeo di Montezemolo, c'è anche Andrea Olivero che è il presidente delle ACLI, che saluto, buongiorno e benvenuto Olivero, eccoci qua. Buongiorno a voi. Presidente delle ACLI, oggi vi ritrovate dove, credo, a Reggio Emilia? Sì, a Reggio Emilia. Ecco, una manifestazione nella quale si dice i centristi potrebbero in qualche modo creare una coalizione e auspicare anche che Mario Monti possa accettare la candidatura premier. Questo sarebbe forse nell'ideale, ma tra poco ne parleremo. Saluto anche Attilio Fontana, che è sindaco di Varese della Lega. Buongiorno e ben ritrovato Fontana. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. La Lega, che invece forse è la formazione che più sta gongolando, no, per questa accelerazione e anticipazione della fine legislatura. Allora Olivero, intanto cerchiamo di capire voi intanto chi siete all'interno di questo schieramento e lei cosa rappresenta e perché Mario Monti dovrebbe essere l'uomo in qualche modo con cui continuare l'avventura politica dell'Italia. Beh, noi siamo un gruppo di organizzazioni, di persone, di esponenti della società civile di varia estrazione e mondi che riteniamo che il governo Monti non possa essere messo tra parentesi, che non si possa tornare nella situazione precedente. Naturalmente accanto a noi ci sono quelle che voi avete giustamente chiamato le forze del centro, cioè c'è l'UDC, ci sono altri soggetti, c'è anche un'organizzazione tra quelle della società civile un po' più strutturata come Italia Futura, messa in campo da Montezemolo già da più tempo. Iniziative varie che si sono ritrovate per appunto sostenere la figura di Mario Monti e contestualmente anche andare a dire che bisogna partire con un rinnovamento della politica che faccia tesoro di quello che è stato fatto in questo anno, ecco, certamente sapendo nei limiti, ma indicandone anche però la bontà, i pregi, certo. Sì, ma perché so che per esempio sulla questione del di come questo governo ha trattato il terzo settore, voi avete, lei soprattutto, ha qualcosa da ridire, però le chiedo che cosa in particolare, cioè voi vorreste nel vostro ideale avere una candidatura a premier ufficiale di Mario Monti, che sappiamo non ha bisogno di essere rieletto visto che sta in Parlamento, già è senatore a vita, non ha bisogno di candidarsi in nessuna lista, però potrebbe in qualche modo dire sì, accetto l'indicazione a premier da parte di una coalizione. È esattamente quello che lei dice, cioè per noi sarebbe importante poter indicare agli elettori con chiarezza qual è il disegno, utilizzando anche il nome del presidente Monti, ma naturalmente non lo forziamo, aspettiamo noi con una certa ansia, ma anche con la convinzione che comunque dovrà essere il presidente a scegliere, perché la questione non è di poco conto. Noi crediamo che comunque l'elemento fondamentale sia la non interruzione di questo processo. Insomma, l'agenda Monti debba continuare, magari con delle modifiche che tra poco vedremo. Attilio Fontana, cosa spaventa di questo? L'ha vista anche lei, le reazioni delle borse, le reazioni dello spread, la reazione dei mercati? Due cose. Spaventa quello che diceva adesso il suo gentile ospite, nel momento in cui si invoca l'unica persona che in Italia non ha mai preso un voto in vita sua e che quindi è la negazione della democrazia intesa come rappresentanza. Spaventa il fatto che l'Europa sia così aggressivo nel intervenire a decidere quelle che sono le sorti del nostro futuro, quelle che sono le scelte che soltanto il nostro popolo può fare. Spaventa il fatto che ci sia una reazione così immediata. Vede, anche la faccenda degli spread, perché poi noi forse ci dimentichiamo di un po' di cose, ma un mese fa con il governo, un mese e mezzo fa con il governo Monti in piena valenza, era risalito a 520 punti, quindi questa è la dimostrazione che sono decisioni, scelte o situazioni che si verificano prescindendo da quello che succede nel nostro paese. All'epoca lo spread era determinato dal fatto che la BCE non decideva se intervenire o non intervenire, se dare il via libera a certi aiuti, poi si è abbassato nel momento quindi in cui la politica, le dice, non conta nulla, le decisioni politiche non contano e nulla. E mi preoccupo che ci sia questa violenza nell'imporre le scelte al nostro paese. Beh, ma perché dice violenza, mi scusi? Cioè, i mercati le reagiscono. Le reazioni sono state estremamente, ma mica solo i mercati, le reazioni scomposte anche da parte dei cosiddetti politici europei. Ma uno non può dire, uno non può dire Monti è credibile, vorremmo che continuasse lui. E ci preoccupa. Ci preoccupa tutto quello che potrebbe essere se non certamente Monti. Se però lei mette insieme che non è stato detto soltanto Monti, ma addirittura è stato detto tutto il resto, rischia di essere un disastro per questo paese, tutto il resto delle scelte rischiano di portare ad affossare questo paese. Se lei mette insieme questa cosa con le reazioni dei mercati, un po' di preoccupazione deve nascere sull'autonomia che deve rimanere in questo paese. La preoccupazione c'è. Effettivamente la critica, Andrea Olivero, che come detto il presidente delle ACLI, è questa: ma se dovessimo stare a vedere quella che è la dittatura dei mercati, in fondo che cosa succede? Forse si voterà a febbraio, probabilmente il 24 febbraio, in alternativa avremmo votato un mese più tardi, allora un mese più tardi ci sarebbe stata la reazione dei mercati e noi dobbiamo stare a vedere che cosa decidono i mercati. A questo punto non dovremmo votare più e dare tutto in mano alla BCE, o no, Olivero? Ma io credo che certamente c'è stato un problema di un segnale forte da una parte di una parte della maggioranza di rottura di uno schema, cioè la sfiducia a Monti ha un valore molto forte, perché è una sfiducia alla linea Monti, e Alfano l'ha espressa in questi termini. Io credo che sia stato il discorso di Alfano aver colpito in Europa, cioè una parte ha detto quello che è stato fatto era sbagliato, E su questa base che si è creato l'allarmismo, non sul fatto che si dovesse andare a votare in Italia, tutti lo sapevano e non credo che un mese appunto cambi la realtà. E che cosa? Una parte politica importante dica quello che è stato fatto è sbagliato. Oltretutto, andiamo a dirlo, una parte che pure quei provvedimenti li ha votati. Cioè, allora, questo secondo lei è stato irresponsabile, questo, cioè dire non tanto acceleriamo la fine della legislatura, ma dire è stato anche sbagliato tutti i provvedimenti che sono stati presi quest'anno. Questa è stata. E certo, perché fa immaginare che nel caso queste forze fossero vincenti, torniamo al passato. Ecco, torniamo al passato e torniamo a quella situazione di un anno fa con tutti i problemi. Io voglio anche ricordare che Monti, è vero, non è stato eletto dai cittadini, ma è stato votato liberamente da un Parlamento che era in una situazione di impasse politica e che ha chiesto politicamente a Monti di assumersi questa responsabilità. Su questo è vero, Fontana, voi della Lega no, però tutte le forze politiche, anche quelle come il PDL che ora ha fatto un improvviso volta faccia dicendo tutto quello che abbiamo votato l'abbiamo votato anche in qualche caso controvoglia, hanno dato che segnale? Cioè quello di un anno subito e che forse remedius per pensa si sono resi conto che certe scelte non hanno portato a nessun risultato, anzi. E dice Olivero che è questo che ha fatto creare la fibrillazione. Certo, ma mi permetto di dire una cosa sola, che per esempio per quanto riguarda le scelte prese nei confronti dei comuni, prima di quello che ha detto Alfano, qualcosa di ben più importante aveva detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che in occasione dell'incontro avuto con noi sindaci, ha detto che effettivamente le cose di cui ci lamentavamo, le scelte prese nei nostri confronti, avrebbero dovuto essere modificate. Si è permesso di dire che effettivamente gli emendamenti da noi presentati alla legge finanziaria, diciamo alla legge di stabilità, avrebbero potuto e dovuto essere presi in considerazione. Quindi forse qualche critica a certe scelte non arrivavano soltanto da un partito che ha la colpa di avere sostenuto questo governo, ma arrivavano anche dal vertice del nostro paese, e mi sembra persona sulla quale nessuno abbia la possibilità di dire nulla. Allora, siamo con Attilio Fontana, come detto il sindaco di Varese della Lega, e Andrea Olivero, che è presidente delle ACLI. Da voi ripartiamo anche con qualche ascoltatore dopo le informazioni sul traffico. Allora, insieme ad Andrea Olivero, insieme ad Attilio Fontana, vediamo qualche ascoltatore che ci ha chiamato e ci sta chiamando all'800240024. Fabrizio, dalla provincia di Roma. Fabrizio, buongiorno. Fabrizio, non ci sente più. Mauro, da Modena, buongiorno. Buongiorno, invece io ci sono. Benissimo. Buongiorno a voi. Mi scuso per la voce perché ho una roccella terribile. Ah, sente bene. Dica. Niente, volevo dire quello che penso. Dunque, Monti, secondo me, ha fatto benissimo di mettersi questo, è sicuro. Io credo che lui sia molto intelligente, per cui non, in questo momento non mi sembra possibile che lui possa scegliere di essere il primato di un centro abbastanza anomalo, voglio dire. Cioè, perché non vuole essere, secondo lei non si candida a premier, diciamo? No, secondo me potrebbe anche farlo, ma in questo momento scendere e accettare la candidatura di un centro abbastanza anomalo, perché Luca Di Montezemolo, l'UDC di Casini, presidente, vicepresidente dell'ACLI, Fini. Non credo che sia il momento perché lui possa prendere questa posizione. Secondo me farebbe malissimo. Che dovrebbe fare? Stare lì sempre alla finestra? In questo momento lui l'ha detto anche in Europa. Lui è ancora presidente del Consiglio fino alle elezioni prossime. Sì, no, è chiaro. Perché dovrebbe accettare? Non dovrebbe accettare. Insomma, perché cosa fa? Rimane in ghiacciaia all'ultimo secondo, dice: eccomi qua, sono Monti, sono l'uomo per tutte le occasioni. Comunque, secondo lei, Mauro, non dovrebbe prendere questa decisione. Fabrizio, l'abbiamo recuperato dalla provincia di Roma. Fabrizio, buongiorno, ci sente adesso? Buongiorno a lei. Dica. Sì, si sente un po' male. Ma no, tu. Ma io, i professori sono soliti dare voti, l'hanno fatto l'università, è sempre così. Sì. Diamo un voto a noi al professore. Sì, ma guardi Fabrizio, non si sente quasi niente di quello che lei dice, non so se parla da un auricolare, eccetera, non so, si sente un po' male. Non fermo, Provi. Sì. Ecco, dicevo, siccome sono loro i voti normalmente, diamo di noi un voto a lui, nel senso che dopo un anno di lavoro, sì, secondo me è abusivo, perché non è stato eletto dal popolo, ma è stato messo lì dall'alto, abbiamo tutti gli indicatori fallimentari, dalla disoccupazione al debito pubblico, eccetera. Quindi a questo punto i risultati erano chiaro, questo signore e tutti i suoi ministri, secondo me, sono stati un fallimento. Rigettoci a tornare alle elezioni, insomma. Ma sì, non... ma no, ma nessuno mette in dubbio, ripeto, non è che si senta benissimo sul cellulare. Comunque lei dice che Monti e i suoi ministri sono stati un fallimento e bisogna tornare alle elezioni, ma nessuno mette in dubbio, ormai si tornerà alle elezioni tra poco. Andrea Olivero, vorrei chiederle, secondo lei, quando Mario Monti dice gli italiani non sono sciocchi e sono adulti, a che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che non accetteranno le ricette facili, gli slogan. Io credo che in questo momento ci sia effettivamente un po' di delusione, un po' di difficoltà, perché è chiaro che si stanno pagando le tasse, si sta pagando l'IMU, cioè c'è la sofferenza di una crisi che si sente molto forte. Però al contempo io credo che tutti si ricordino come eravamo un anno fa, con il rischio del default dello Stato, con il rischio che quindi i nostri conti correnti fossero a rischio, che la situazione appunto degenerasse e che noi potessimo arrivare alla condizione della Grecia. Questo non c'è stato. Io credo che molti, anche di quelli che si lamentano oggi, non vorrebbero tornare a un anno fa, non vorrebbero, scusi, tornare in quella situazione da fare. Perché l'alternativa è messa così? Cioè o Monti oppure si torna un anno fa? Non c'è davvero la terza via, cioè una politica nuova, una nuova classe politica, o comunque non nuova magari nei nomi, ma un nuovo Parlamento che faccia le cose che l'Europa ci chiede di fare, insomma, che faccia la politica del paese. Credo che questo sia il processo. Dico che in questo processo è utilissimo avere Monti. Io non dico Monti uomo solo al comando. Il governo tecnico c'è stato quest'anno e non si deve ripetere. Io sono convintissimo di questo. Ci dovrà essere una maggioranza politica, ci dovrà essere una prospettiva di governabilità. Io mi dico, perché privarci della persona che meglio rappresenta questo processo, cioè Mario Monti? Fontana, forse è la persona, è questo il punto sul quale più c'è divergenza, non è la persona che più rappresenta... Ma guardi, vede, il suo interlocutore parlava di capacità, che gli slogan non colpiscono più e non sono più utili, però mi permetto di sottolineare che per esempio il più grosso slogan che c'è stato in questo anno è il parlare della spending review. Nella realtà, se lei va a vedere i provvedimenti di governo Monti di spending review, non c'è stato assolutamente nulla. Vero è che, a parte che nei confronti dei comuni, nei confronti dei quali non c'è stata spending review, ma ci sono stati tagli lineari, nel resto della pubblica amministrazione il debito è aumentato. Quindi dov'è questo massimo slogan di questo periodo, di questo anno di governo Monti, nel dire che stava migliorando i conti dello Stato, nel dire che stava riducendo gli sprechi dello Stato, e invece di tutto questo non si è verificato. Sì, ma quando ha cercato di fare niente, la spending review, per esempio, sì, ma per esempio quando ha cercato di fare il riordino delle province, l'avete voi classe politica affossato, fermo, caro no, sindaco. No, no, no, ma sì, tutti, è stato impallinato, non si riesce a fare niente. Lei che è una persona intelligente, non si faccia trascinare dalla demagogia. Ma non è demagogia, mi è un lasci po' così. Dire una cosa, nessuno ha mai detto che noi non vogliamo rivedere l'organizzazione istituzionale di questo Stato. Noi riteniamo che questa cosa si debba fare in modo serio, perché questo accorpamento, che è il modo in Italia per non farlo mai da vent'anni, allora, ma non con Monti, da vent'anni. Se non siamo capaci, mi scusi, allora se non siamo capaci, questo è tutto un altro discorso, ma mi consenta, questa non è una riduzione di costi, è soltanto una riduzione di servizi, perché accorpare la provincia di Varese con quella di Como e con quella di Lecco vuole dire disastro. Semplicemente che ci sarà un'unica questura, e se lei mi ritiene che la riduzione dei costi debba essere fatta nelle questure, quindi nella riduzione della sicurezza, le dico, questa riduzione di costi non la voglio. Se poi andiamo a vedere quali sono i costi che si riducono con l'eliminazione della parte politica delle province, è una riduzione assolutamente risibile. Ma allora io le dico, perché è stato abbandonato è stata abbandonata la carta delle autonomie. Io non sono affascinato dal fatto che ci debbano essere due, tre o quattro livelli istituzionali nel nostro paese. Io credo che però, come quelli che hanno coscritto la Costituzione hanno seguito un ragionamento, sì, adesso si debba fare altrettanto. Non si possa arrivare a una scelta di riordino istituzionale attraverso un decreto legislativo un decreto legge in materia di finanza. È una cosa che fa inorridire. Se l'avesse fatta qualche altro governo si sarebbe gridati tutti a colpo di Stato. In ogni caso staremo a vedere. Intanto Impresa Diretta poco fa Berlusconi ha detto l'economia con Monti è peggiorata, ma sarà un po' il leitmotiv di questa campagna elettorale, cioè con Berlusconi che cercherà di dire insomma con Monti è andato tutto peggio. Io mi devo fermare, vi ringrazio Andrea Olivero, presidente delle ACLI. Vedremo allora cosa verrà fuori anche da oggi questa manifestazione a Reggio Emilia, se davvero riuscirete nei prossimi giorni a venire, dice nel giro di due giorni Monti deciderà qualcosa. Ringrazio anche Attilio Fontana, sindaco di Varese della Lega e presidente anche dell'ANCI Lombardia. E che dire, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Miriam Lucchetti in redazione, Carmelo Lauricella in regia, ci troviamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.